chepo da pertuto La dove rimioi okichi bozano La dove mio cuore mi contute I chepo deli okiteli atri I chita rimu more I foli verini mori de la mia camera Ei no lo so cos'è l'amore Ei no capisco cos'è l'amore Ti prego mi rinseni Miami mi salvi mi aiuti da te fa bene mi rifugio in calma in pace che regnano in tuo cuore ho veramente bisogno di te e tuo amore della tua forza ascolti l'uomo in vita di bronze io lascio il mio cuore aperto la chiave sei tu che ce l'hai e l'ho dato re adesso Ti aspetto, vieni subito, mi confirmare. Oka! Oh, mamma, che bien! Kamase, le chamano. Ti potrai si mandar, ti mio caro cuore con le nostre due iniziali. Manca l'uccello della fortuna la colomba africana per avere questo appuntamento della fortuna d'amore per l'eternità che la vita è così bella e che sono innamorata di te ti potresti mandarti mio caro cuore con le nostre due iniziali manca l'uccello della fortuna la colomba africana Per avere questo appuntamento della fortuna d'amore per l'eternità Che la vita è così bella e che sono innamorata di te Grazie.